Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a dicembre del 1808. La Spagna invasa si ribella, Napoleone reprime il fratello sul trono di Madrid. La corona del regno di Napoli passa sul capo di un ufficiale francese, Gioacchino Murat. Un uomo di Jefferson è il nuovo presidente americano, si tratta di Madison. Distrutto dalle fiamme a Londra, il teatro del Covent Garden. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura ancora le cronache di guerra, questa volta dalla Spagna. Da tempo, a quanto si dice, l'imperatore si fidava poco o nulla dei monarchi spagnoli. A confermarlo, le truppe che aveva fatto arrivare sul confine portoghese fin da febbraio, anche per evitare che il ramo iberico dei Borbone giocasse qualche scherzo alla Francia napoleonica. La pressione su Madrid si è fatta via via più forte, fino a quando Carlo IV ha abdicato in favore del figlio Ferdinando, palesemente ostile a Parigi. Il governo francese non è stato a guardare e ha invaso la Spagna. Napoleone ha insediato sul trono Carlo, poi l'ha costretto ad abdicare in favore di Giuseppe Bonaparte, suo fratello. Si è scatenata a questo punto una guerra i cui esiti sono difficili da prevedere. Gli spagnoli vogliono l'indipendenza e con un esercito ormai ridotto a poca cosa hanno scelto la via della guerriglia, finora con buon successo. Il paese appare diviso, la nobiltà è filo borbonica come pure il popolo, scosso dal massacro di 5.000 madrileni avvenuto il 3 maggio. Una parte della borghesia invece vede di buon occhio l'abolizione del feudalesimo e dell'inquisizione imposta dall'imperatore. In questi pochi mesi, tuttavia, Giuseppe Bonaparte è stato già deposto una volta e rimesso sul trono dal fratello, e alcune città, come Saragozza, accinte d'assedio, continuano a reggere il confronto coi francesi. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E con Giuseppe Bonaparte, ormai più o meno stabilmente, come avete sentito, sul trono di Spagna, su quello di Napoli siede un ufficiale francese. Si tratta di Gioacchino Murat, che tra l'altro è cognato dell'imperatore. Nato figlio di un albergatore, ha fatto carriera militare durante la rivoluzione e poi sotto Bonaparte, accompagnandolo nelle principali campagne. Di temperamento focoso e sanguigno, il nuovo re è molto amato dalle truppe che sono state sotto il suo comando. I federalisti hanno presentato lo stesso candidato che era stato sconfitto 4 anni fa, Charles Pinckney, e non ce l'hanno fatta nemmeno questa volta. A vincere le elezioni presidenziali americane è stato l'uomo del partito repubblicano del presidente Thomas Jefferson, James Madison, segretario di Stato nella precedente amministrazione. Da notare il gesto di Jefferson, che ha deciso di farsi da parte, di non correre per un terzo mandato. Fatto che a questo punto, visto l'esempio di Washington, sta diventando una tradizione americana. È stato completamente distrutto dalle fiamme il teatro del Covent Garden a Londra, uno dei maggiori in Europa per le rappresentazioni di opere di balletto. Costruito nel 1728, ha un passato glorioso. Là sono state presentate alcune importanti opere di Georg Friedrich Händel, tra cui Il Messia. I lavori per la ricostruzione sono già iniziati. È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciarci un commento, o farlo prendendo penna e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.